più a fianco da questa mattina, senza sapere chi sei, cos'è successo. Dai colpa alla sbronza, non darmi di lei, assomiglia a un bellissimo sogno, Freud. Intanto tra queste coperte fa freddo, sono le 8, non so se scendere al bar, portarti un cornetto, come in quei film che non ho mai visto. È tanto piacere, ieri sera con tutto il casino, non ti ho detto nemmeno il mio nome. Sarà distrazione, sarà che questa canzone ha qualcosa di noi. Non siamo supereroi, ma oggi mi sento davvero diverso, come un pirata che naviga al largo dopo anni di isolamento. E guarderemo insieme la pioggia sull'asfalto, e passa un altro giorno, ricorderemo tutto. Noi sconosciuti, sopravvissuti ad un oceano aperto, che però sono affogati dentro. In questo amore che tornerà sempre da me, un po' amaro, un po' dolce come il caffè. Ora che siamo distanti, là il tempo com'è, nemmeno Parigi è più bella di te. Facciati fuori, anche se quello che vedi non è più lo stesso. Pensa che siamo divisi soltanto dal vento, con una penna ti dedico tutto. E dovevo trovarti per dirti quanto ho bisogno di te. Bastata una notte, sei fredda ma bella in tutte le pose, una principessa di ghiaccio Frozen. È tanto che aspetto il momento perfetto, senza che arrivi mai quello giusto. Forse perché non mi accontento, avendo davvero un difficile gusto. Ora guarda il cielo, c'è la stessa luna, e fai buon viaggio, buona fortuna. E guarderemo insieme la pioggia sull'asfalto, e passa un altro giorno, ricorderemo tutto. Due sconosciuti, sopravvissuti ad un oceano aperto, che però sono affogati dentro. In questo amore che tornerà sempre da me, un po' amaro, un po' dolce come il caffè. Ora che siamo distanti, là il tempo com'è, nemmeno Parigi è più bella di te. Questo amore che tornerà sempre da me, un po' amaro, un po' dolce come il caffè. Ora che siamo distanti, là il tempo com'è, nemmeno Parigi è più bella di te. Sull'asfalto e passa un altro giorno.